strada fai. Stasera ti accompagno e se puoi mi fermo. Rimango a chiederti di riservare ancora del tempo per me e per te. La penombra copre e nasconde pezzi di vita andata che la memoria ha chiuso in silenti stanze che neanche l'eco sfida. Ed ora ho fisso qui il mare di fronte a me. Dammi i tuoi occhi e rivedo il cielo tuo. Dietro le nuvole, lo stagno in cui si bagnò con me la musa di giorni intensi che poi sparì. Pallido il volto tuo stasera, le parole mie son tiri. Di artiglieria che deflagrano nel cuore tuo è un frammento, lacera pure il mio. Comprendimi se puoi e perdona questo rottame tenta di rifondare una vita e l'appoggia su un po' d'amore per te. E vedo che la mia vita ritorna per quella via, la via che un giorno presi per affondare lei. Scossi rimangono i ricordi quando riaffiorano, ma tu li puoi stordire con la tua simpatia.